Animazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Close your eyes. Rinnego. Rinnego il mondo della società che mi ha guidato fin dalla nascita. Rinnego i loro costumi, i loro valori che mi hanno modellato per soffrire il loro potere imposto. Rinnego la loro autorità e i loro obblighi che mi hanno limitato nella mia educazione. Rinnego la loro cultura bastarda, dei loro dogmi guidati dalla sete di servitù e sottomissione. Rifiuto ciò che mi ha fermato, perché rifiuto i vizi stessi che continuamente mi danno. Sputo su tutta la merda e l'odio contenute davanti a tante punizioni, a tanta pressione sociale. Rinnego il bene e rinnego il male. Non sopporto le loro convinzioni stupide che fanno della nostra volontà morte e la nostra morte una pecora fedele e grata per darci nulla. Rompo con la merda e il consumo. Faccio un passo di lato per poterlo analizzare. Vedo una doppia effettività perché rifiuto per sempre le loro passività che consuma le disposizioni più nobili nella comodità alienanti della civiltà. Uccido le mie paure, che sono prodotte come mezzo di controllo per loro, gli stessi proprietari e fedeli servitori del capitale e tutti coloro che parlano la stessa lingua della sottomissione. Dal libro Fuoco della vita, i compagni del blog Nuca di Rodillas hanno corretto alcuni errori di grammatica e la punteggiatura per rendere il testo comprensibile a tutti. Il titolo è Rifiuto, l'autore era Sebastian Ovesluji Segel. E tutto ciò mentre voi state ancora a tavola ad abbuffarvi davanti alle tavole imbandite del porco Natale, che non è nero quest'anno, è molto bianco. Allora, questa è Radiazione, diretta d'azione di 26 dicembre, venerdì 26 dicembre 2014. Abbiamo iniziato così la giornata pomeridiana, mentre, come dicevo alla fine del testo di Sebastian, molti di voi stanno ancora seduti con i piedi sotto la tavola ad abbuffarvi, mentre si fanno gli anarchici, poi ci si abbuffa durante il Santo Natale. E questa è una bella contraddizione, non è la contraddizione, non è il web la contraddizione, non tanto il web, ma è questa la vera. Allora, oggi la diretta d'azione, come ogni venerdì, comprende solo la controinformazione, qualche riflessioni, le provocazioni e la musica. Mentre per lunedì prossimo l'appuntamento è insieme a Marcello, saremo io e lui come tutti i lunedì da quasi 3 anni a questa parte, con la controinformazione e le letture. Stiamo andando verso la fine di Nazero 13, il mio testo, mentre con Nessuno ci salva siamo arrivati alla metà. Nessuno ci salva, l'autore è Sergiu Piasecki, lo ricordo per chi non lo sapesse, storia di dritti e di merli, di ladri e di derubati. Allora, ricordiamo anche gli indirizzi utili per Radiazione, ricordando che la diretta ora, fortunatamente, ora lo dico, tra poco cadrà, lo so e ne sono sicuro, che praticamente la caduta di connessione che avveniva di solito verso le 18:10 ora avviene puntuale alle 17:52, quindi a regola non dovremmo avere rotture di palle, però come si sa, appena lo diciamo, pa, cade la connessione. Quindi se cade la connessione, aspettate un attimino, provate sempre a riaggiornare la pagina, a cliccare play sul lettore e vedrete che prima o poi torneremo con la diretta. Ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@autistici.org, per chi vuole mandare comunicati, scritti, tutto il materiale che può essere pubblicato sul sito di controinformazione di Radiazione. Lo ricordo di attenersi alle nostre tra virgolette regolette sulle cose da inviare a Radiazione, cose che verranno pubblicate, le cose che inviate e non vi attenete alle tra parentesi virgolette non verranno mai pubblicate. Alla mail potete anche inviare qualche consiglio sui libri da leggere nel lunedì, lo ricordo, non mandate testi anarchici, ce li abbiamo, li conosciamo, stiamo leggendo, leggiamo con Marcello, leggiamo solo testi di narrativa, romanzi, con delle tematiche bene o male che ci possono interessare, qualche spunto lo dà anche Nessuno ci salva. sul come non lavorare, sul come recuperare il purtroppo denaro che altra contraddizione, però finché non usciremo da questa merda il denaro serve per campare, non ci prendiamo in giro. E comunque sul libro di Sergio Spiasecchi, Nessuno ci salva, ci sono alcune dritte come recuperarlo sto denaro. Ora ci cade la connessione, ora vi faccio vedere. Allora, radiazione, il sito, come dicevo, radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltarvi anche le vecchie dirette d'azione. C'è una pagina chiamata Podcast Radiazione, là ci trovate tutte le dirette da quando abbiamo deciso di fare podcast, quindi ci sono 2 anni di podcast, a voglia rompervi i coglioni. Invece nella pagina download potete scaricarvi un bel po' di materiale che ci fanno avere anche altri, come che li mette Radiazione, come Edizioni Radiazione, che mette a disposizione opuscoli, CD e quant'altro a disposizione di compagni a 0 euro, perché le idee non devono avere un prezzo. O altri compagni, nella pagina dei download ci trovate sempre manifesti, CD, libri, opuscoli, adesivi, tutto quello che i compagni non vogliono far pagare. Però mi raccomando, se qualcuno di voi ha la brillante idea di scaricarsi questo bel po' di materiale o dal download oppure dalle Edizioni Radiazione e lo volete diffondere, lo iniziate a mettere sui vostri banchetti, mi raccomando, non mandate una lira a Radiazione, ne avremmo bisogno, però non ne vogliamo soldi, preferiamo che qualche ricavato dalla vendita di degli opuscoli, dei CD e roba altra vada nelle casse per i compagni arrestati. Questo è. La radio trasmette con le dirette sul server di anarchia.net, messo a disposizione al comando di The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre, stesso server che poi ospita il sito di Radiazione. Allora, ora vi ho fatto proprio una testa così, tutto giusto per iniziare, giusto per farvi digerire il pasto di Natale, vi ho fatto una testa così, però ora ci ascoltiamo prima un brano e poi dopo si parte con la diretta, con la controinformazione, le riflessioni, qualche provocazione. Oggi non ce ne dovrebbe essere provocazioni, insomma. Ora ci ascoltiamo un brano dei Egram, Fly Non Fly, voliamo o non voliamo, abbiamo volato 10 minuti prima della diretta, speriamo di non volare più, e poi dopo torniamo qui e si inizia subito la diretta con la prima notizia di controinformazione. E questi erano il Gram con il brano Fly in un Fly. Vi sentite un po' in colpa, perché state festeggiando il vostro caro Natale, anarchici, cazzi vostri. Nessuno vi ha detto di sedervi a tavola e festeggiarlo, nessuno vi ha detto di andare a fare i regalini come fanno tante altre gente, che però poi ci crede nel Natale. Voi non ci credete, dite che non ci credete. Avevamo detto che non facevo provocazioni, non le facciamo, facciamo i bravi a Natale, facciamo i bravi, non facciamo provocazioni, sti cazzi. Noi a Natale non ci si crede, e quindi le provocazioni le faremo come gli anarchici se ne vanno in vacanza in estate, così nelle sante feste si festeggiano il loro bel Natale, la loro bella Pasqua e non lo so quante feste religiose esistono ancora di più. Allora, bando alle ciance, partiamo subito con alcuni brevi sia messaggi che testi di azioni, giusto per partire un po' meglio, un pochino più leggeri, con la diretta odierna. Iniziamo da Milano, dove sono state danneggiate delle auto di Enjoy, in solidarietà con Gianluca e Adriano. Leggiamo il testo rivendicativo. Milano, 15 dicembre, danneggiate più di 20 macchine di Enjoy, servizio di autonoleggio ideato da Eni in partnership con Trenitalia, Freccia Rossa e Fiat. Questa azione in solidarietà a Gianluca e Adriano e tutti gli anarchici prigionieri. E questa era il primo dei tre brevi. Invece l'altra breve è quella riguardante la Grecia, dove il compagno Nikos Romanos è stato riportato in carcere. Dopo 31 giorni di sciopero della fame, Nikos Romanos è stato dismesso poco dopo l'una di mercoledì dall'ospedale di Genimatas, non lo so come si pronuncia, dopo 8 giorni di riabilitazione. Scortato da ingenti forze di polizia, ha preso la strada per il carcere di Korydallos, dove verrà ristretto subito nella sua cella, tra virgolette, non nell'ospedale del carcere. Un'altra breve notizia è quella è la traduzione di un adesivo che ci inviano i compagni cileni in ricordo di Sebastian Novesluci. L'ho tradotto, cioè io ho sempre detto che non voglio più che arrivino e non pubblicherò mai più ste cose in ricordo, in memoria del compagno morto di qua e compagno morto di là. Io non sono per il culto della carogna. La carogna non è la persona di Sebastian Novesluci, ma questo non lo devo spiegare. Penso che gli anarchici dovrebbero capire il culto della carogna, a cosa si è riferito. Però vabbè, mi hanno preso alla sprovvista, uno lo si può anche lasciar passare. E quindi abbiamo tradotto questo piccolo adesivo in ricordo di Sebastian, che inizia con una frase in grande che dice: chi lotta non sarà mai dimenticato. Sebastian Novesluci Seguel Angri è stato compagno che ha abbracciato le idee anarchiche, nichiliste e insurrezionali, che in un tentativo di esproprio di una banca l'11 dicembre 2013 è stato ucciso da William Vera, una guardia bastarda protettore di denaro e dei ricchi. Angri ha fatto una vita di lotte, combattendo contro tutto ciò che lo bloccava per la sua autonomia e per la sua liberazione totale, animale, umana e della terra. Per questo era vegan e si è rifiutato anche di assumere droghe e alcol. Ricorderemo per sempre il compagno e tutti coloro che lottano per la libertà e affrontano il potere e tutta l'autorità. Le nostre vite continuano nel conflitto. Il modo migliore per onorare la sua memoria è quello di continuare la lotta. E questo era il testo, questo mini testo presente sull'adesivo, che se volete potete anche scaricarvi. Poi ve lo fate voi l'adesivo, io vi metto a disposizione il file, i compagni che me l'hanno inviato, i compagni cileni che mi hanno inviato il file per farne l'adesivo, me l'hanno dato e io l'ho messo là sul sito per potervelo far scaricare. C'è scritto Angry in verde, ci cliccate sopra, vi si apre il PDF, ve lo stampate e ve lo fotocopiate su carta biadesiva o carta adesiva, vedete voi, non lo so, è una vita che faccio adesivi, quindi non mi ricordo nemmeno come si fanno. Un altro testo invece, un altro breve testo, giusto per iniziare la diretta, e ci viene, mi arriva dai compagni di Sin Banderas Ni Fronteras, solidarietà con gli anarchici arrestati in Spagna. Solidarietà insurrezionale con gli anarchici arrestati in Spagna, nessuna aggressione, senza risposta. Davanti alla nuova operazione repressiva che ha visto il 16 dicembre 10 spazi anarchici invasi dalla polizia e 7 compagni anarchici detenuti nello Stato spagnolo accusati di terrorismo, la nostra risposta non può essere altro che la solidarietà internazionale anarchica, multiforme, offensiva, permanente contro tutte le espressioni del dominio. Che i nostri compagni sentano il calore della solidarietà e che il nostro nemico bruci nel fuoco della lotta anti-autoritaria per la libertà. Né colpevoli né innocenti, semplicemente nemici del potere e tutte le autorità. Monica Caballero, Francisco Solar, Gabriel Pombo da Silva e tutti i compagni detenuti in Spagna e nel mondo, liberi. Sin Banderas Ni Fronteras. Per chi vuole scrivere ai compagni, poi ci hanno messo anche la mail, la trovate sullo sito di Radiazione. E questo era giusto giusto per iniziare la diretta di oggi, venerdì 23 dicembre, di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano e poi dopo inizieremo la lettura di varie analisi, ce ne sono varie, una che arriva da Marco, altra arriva dalla Grecia o dall'Italia, non si capisce da dove cazzo arriva, quella arriva, però è una bella riflessione e quindi si è deciso di tradurla e pubblicarla. In più ci sono anche altre cose, ma se dico tutto ora... mi perdo mi perdo proprio, no non il bello della diretta, non me ne frega proprio un cazzo, tanto lo sappiamo che funzioniamo più come podcast che come dirette, insomma vabbè, ve li dirò uno alla volta man mano che si andrà avanti con la diretta. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Accessory, Shut It Out, e poi dopo si torna qui. E prima notizia vera di controinformazione, prima riflessione. Fuck. E questi erano il sesto lì con il brano Shut It Out. Allora, abbiamo detto giornata ricca di riflessioni, ci sono varie riflessioni. Noi iniziamo con una presa non proprio da un sito amico. Non ci stanno tanto simpatici, non ci stanno tanto, sì, lo diciamo, tanto anche noi stiamo antipatici a loro, e quindi tutto ok, tutto bene, è necessario e dirsele le cose. Allora, però nonostante ciò, quando uno trova una riflessione fatta bene, la legge, e poi nel mio caso decido anche di pubblicarla su Radiazione. Allora, prima del testo io ho aggiunto una nota come Radiazione che dice: ho notato il seguendo testo in rete e ho deciso di pubblicarlo proprio perché se ne condivide il contenuto riguardante la continua pubblicazione di foto dei compagni arrestati sui vari mezzi di controinformazione anarchica, carta o web. Come Radiazione, già da un bel po' di tempo si è deciso di non pubblicare più foto dei compagni colpiti dalla repressione, e lo stesso vale per i video riot, in cui si vedono i visi dei compagni che lanciano molotov e pietre, ripresi non solo dalle videocamere o macchine fotografiche, dagli sbirri, ma anche da altri compagni che poi li rendono pubblici spiattellandoli in rete. In questo modo avviene la prima pubblicazione di un wanted. Il resto lo fanno gli sbirri e la magistratura, individuando i colpevoli, arrestandoli e portandoli a processo. Si spera che prima o poi questa pratica venga del tutto eliminata dai compagni. Radiazione l'ha fatta già da un bel po' di mesi, ora si spera che anche altri siti e blog di compagni e anche giornali in carta prendano il vizio di eliminare queste foto. Ora, non tanto per le foto dei compagni morti, quelli va bene, anche se non va bene l'anniversario ogni anno il culto della carogna, come dicevo prima, ma quello è un altro discorso. Il compagno morto è morto, non è più individuabile, mentre i compagni vivi arrestati, sarebbe bello non pubblicarne le foto. Poi se loro le vogliono, sta a chi fa controinformazione, e lo ripeto, carta e web, pubblicarle o meno. A me, anche se sono d'accordo, la foto non gliela pubblico, quindi mettiamo in chiaro, io non voglio, a prescindere, non apro Wanted sulla pagina di Radiazione. Allora, il testo che dicevo che abbiamo preso da questo sito ha per titolo Nessun riconoscimento, che dice: i topi di biblioteca che rovistassero tra le carte ospitate dall'Archivio di Stato di Roma potrebbero fare una scoperta piuttosto bizzarra. In uno dei faldoni su Paolo Schicchi si imbatterebbero ad un certo punto in una prima pagina di un numero, un vecchio numero di La Dunata dei Refrattari, settimanale anarchico pubblicato a New York con un buco nel mezzo di forma quadrata. Boh, e che è sta roba? La risposta si trova nel documento successivo, un atto della polizia fascista dell'epoca. La Dunata aveva pubblicato una foto recente dell'anarchico siciliano, allora in giro per l'Europa a tramare contro Mussolini. Ma poiché negli archivi questerini la foto di Schicchi di cui disponevano era alquanto datata, risalente alla fine del secolo precedente, veniva richiesta la sua immediata duplicazione. Furono quindi stampate centinaia e centinaia di queste foto, alcune esemplari sono presenti in questo stesso faldone, da distribuire a infiltrati, confidenti e sgherri del regime sparsi per il vecchio continente. Cose da pazzi. La polizia fascista non conosceva i connotati di Schicchi e a fornirglieli furono gli stessi anarchici. Accidenti, che brutto errore. Non ci risulta che l'arresto di Schicchi avvenuto nel 1930 sia attribuibile a quella foto, ma insomma, questo La Dunata poteva risparmiarselo. Ecco, questo episodio mi viene sempre in mente quando mi ritrovo davanti agli occhi l'immagine di un compagno o di una compagna riprodotta e diffusa da altri compagni. Ovviamente non siamo più negli anni 20, il Ministero degli Interni non ha certo bisogno di ritagliare con le forbici le pagine delle pubblicazioni sovversive. ma altrettanto ovviamente, pur scervellandomi, non riesco a comprendere quale sia il senso. Lo capisco perché i compagni morti, il cui volto in un certo senso dà maggiore concretezza ad un ricordo che rischia di essere troppo sfumato, in fondo, io lo confesso, è bello vedere gli occhi infuocati di un Gaetano di Giovanni, ma quelli vivi, perché diffondere i tratti? Lo si può capire solo in un caso di tortura, quando si vuole rendere pubblico quanto accaduto, come è avvenuto di recente in Grecia, altrimenti no. No, e non solo perché mi sembra un insulso omaggio a questa civiltà dell'immagine, un'intrusione nella vita privata di altri, una imitazione delle tecniche giornalistiche. Non sarei d'accordo nemmeno qualora fossero gli stessi compagni raffigurati a chiederlo, la cui vanità andrebbe rispedita al mittente. Sia che questi compagni si trovano in libertà, sia che si trovano in prigione, la diffusione delle loro fattezze è un passo falso. Se non nell'immediato, lo sarà comunque nel futuro, perché si instaura una pessima abitudine che nel caso in cui prenda piede sarebbe poi difficile da controllare. Se Tizio vuole che la sua foto venga diffusa, allora diffondiamo anche quella di Caio, e se Caio non vuole, che strano, perché non vuole, parliamone. No, non parliamone affatto. Meno le foto circolano e meglio è. Detto fuori da denti, nessuno può sapere se Tizio, Caio o Sempronio sia responsabile di questa o quell'altra azione. Nessuno può sapere se un qualsiasi testimone oculare o aspirante giustiziere capiterà mai su un sito o sulle pagine di un giornale in movimento. Non importa che quelle foto siano già comparse altrove, su mezzi di informazione assai più diffusi, né che riguardino compagni che si trovano a migliaia di chilometri di distanza. Non ha senso aumentare tale nel dubbio di meglio evitare, sempre e comunque, meglio per metodo a priori, non per calcolo a posteriori. L'amore e il rispetto verso i compagni nascono da quello che sono, non da come appaiono. Non c'è bisogno di far sapere se sono alti, bassi, giovani o vecchi, magri o grassi, biondi o curiosità, lasciamolo per i morti, per coloro che non rischiano più di vedere il loro volto svelato dalla repressione, dai loro stessi compagni. Chi è roso da simile curiosità anche nei confronti dei vivi, vada pure a grattarsela. Ma per favore, non facciamone un'iconografia di movimento se non vogliamo correre il rischio un giorno di venire ringraziati da infiltrati, confidenti e sgherri di ogni genere. E questo era il testo che è stato preso da Finimondo. Non c'ha firma, quindi si presuppone che l'abbiano scritto i compagni di Finimondo il testo. Testo condivisibile in tutto e per tutto, lo ripeto, anche come radiazione in passato abbiamo fatto mal uso di queste foto di compagni mettendole sul sito ogni volta che venivano arrestati. Ci siamo fatti prendere un po' la mano all'inizio, però poi si è deciso che non era più il caso. Abbiamo un attimino aperto gli occhi, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto no, mai più foto di compagni vivi sul sito. Non diamo altra, non diamo a mangiare gli sbirri, per favore. Allora, questo era il primo testo della giornata per quanto riguarda la diretta d'azione. Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi dopo ripassiamo con un altro testo, altre analisi. Il brano che ci ascoltiamo ora è degli Eteri Teenage Riot, il brano è Reset, e dopo non ve lo dico cosa c'è. We'll be right back. Reset, Eteri Teenage Riot, questo era il brano che seguiva il testo sulla le riflessioni sulla pubblicazione di foto di compagni colpiti dalla repressione. Allora, ora invece dall'Italia, perché testo italiano, quello che abbiamo letto in precedenza, si passa in Spagna, dove ci sono aggiornamenti sull'operazione Pandora. Il giorno 16 dicembre 2014 sono state arrestate 11 persone durante le perquisizioni in Spagna per essere membri di un'organizzazione, accusati di essere membri di un'organizzazione anarchica terrorista in quello che il governo spagnolo chiama Operazione Pandora. 7 compagni anarchici sono stati incarcerati in seguito alla massiccia operazione di polizia a Barcellona e nelle altre città catalane e a Madrid. Sotto gli ordini della Corte Nazionale Spagnola, in un'operazione ordinata dal giudice Javier Gómez Bermúdez, la polizia ha perquisito la Casa della Montagna, l'Ateneo Libertario di Sant'Andreu, l'Ateneo Anarchico di Poble-sec ed alcune case private. La polizia ha sequestrato telefoni cellulari, computer, portatili, dispositivi informatici, ogni tipo di documentazione e numerosi apparecchi elettrici domestici, cosa che sappiamo benissimo. Perché sequestro anche qua in Italia. Mercoledì pomeriggio i compagni sono comparsi in tribunale davanti al giudice Javier Gómez Bermúdez, il quale ha concesso a 4 di loro la libertà vigilata, mentre altri 7 li ha mandati in carcere vicino a Madrid. Gli anarchici arrestati non sono ancora stati accusati per nessuna azione penale in particolare e il fascicolo della polizia contro di loro rimane segreto. È stato reso pubblico solo il decreto giudiziario che contiene le accuse dei supposti crimini: promozione, gestione e appartenenza ad un'organizzazione terrorista, possesso e deposito di ordigni o esplosivi e infiammabili, incendiari o asfissianti, come anche danneggiamento e distruzione con intenti terroristi. Gli esplosivi sono le bombole di gas e il possessore ha detto che sono per il campeggio. Sono accusati anche per il possesso di un libro sospetto intitolato Contro la democrazia e per l'utilizzo degli account di posta elettronica con estreme misure di sicurezza come server Rise Up. Si suppone anche che siano membri di gruppi anarchici coordinati, Grupos Anarchistas Coordinados, GAC. Il giudice Gómez Bermúdez, riferendosi all'indagine iniziata 2 anni fa dalla Mossos, polizia catalana, contro i GAC, ha detto che si è giunti alla conclusione che i suoi membri possono essere gli autori di diversi attacchi con ordigni esplosivi artigianali in tutto il paese. Dopo le perquisizioni ci sono state forti manifestazioni in molte città della Catalogna e in Spagna. E questo era il testo che ci fornisce ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l'operazione Pandora, con tutto quello che ne è derivato e che abbiamo appena finito di leggere. Radiazione dagli aggiornamenti su questa operazione, anche se un po' i coglioni mi girano. Entriamo nella parte delle provocazioni, ora è Natale e facciamo sto regalo di Natale a chi se lo merita, una provocazione, diciamo le cose come stanno. Allora, Radiazione è la stessa persona che praticamente circa nel 2003 insieme ad altri compagni di varie nazionalità europee si trovavano fuori al tribunale di Barcellona per aspettare i propri compagni che erano stati arrestati durante la manifestazione di un vertice che c'era stato là qualche giorno prima. Siamo rimasti isolati come compagni, i compagni che venivano da fuori, siamo rimasti isolati, non ci è stata data ospitalità, quando è stata fatta prima una chiamata, poi non ci hanno dato ospitalità, poi fortunatamente una casa occupata di amici ci ha ospitato, eravamo quasi tutti là, a meno di quelli che alla fine si sono ritrovati pure con i propri compagni di viaggio arrestati. Siamo trovati là e non solo non ci hanno aiutato i signori della Casa della Montagna, io spero che siano cambiati nel frattempo gli occupanti di quel posto, ma io me li ricordo molto autoritari, altro che anarchici. Noi lo diamo perché sto parlando di un episodio del 2003, quindi non so veramente, e mi scuso nel caso i compagni arrestati non c'entrano una sega nulla con questa storia, però i signori della Casa della Montagna non solo non ci hanno aiutato all'epoca dandoci un numero di un avvocato, mi ricordo sti giri tra noi stranieri in terra catalana, in terra spagnola pure diciamo, perché non eravamo della regione iberica, da soli a cercare chi ci poteva dare un minimo di informazione sugli arresti. Alla fine ce lo diede Indymedia, se ricordo bene, fornendoci anche un numero di avvocato. Invece i signori occupati di della Casa della Montagna avevano pensato bene che dopo la manifestazione in cui è successo il macello, in cui ci furono gli arresti, di cui se ne sono sbattuti altamente, se ne andarono a festeggiare il loro concerto di Manu Chao, in un posto, non mi ricordo in che pure, era un luogo all'aperto. Ovviamente a qualcuno gli è girata le palle di questa strafottenza di questi fantomatici compagni e si andò praticamente a boicottare il concerto di Manu Chao, mentre Manu Chao suonava sotto c'era un bel po' di compagni che staccavamo i cavi e man mano venivano a mancare gli strumenti. Cosa è accaduto? Che usciti dal palco ci siamo trovati uno schieramento della Casa della Montagna e altri anarchici che amici loro, come un vero e proprio servizio d'ordine che ci stavano per massacrare. Siamo scappati, siamo riusciti a non prendere nemmeno un calcio. Praticamente quando i nostri compagni sono stati poi liberati, dopo aver passato solo noi gli stranieri tutta la giornata dalla mattina alle 8 fino alle 10 di sera davanti al tribunale a Barcellona aspettando i nostri compagni sperando che li facessero uscire, ebbene sì, i compagni uscirono. Quando uscì l'ultima compagna alle 10, purtroppo la compagna non c'è più, praticamente mentre ci stavamo per avviare ci siamo ritrovati lo schieramento della Casa della Montagna, un'altra montagna davanti, un'altra Casa della Montagna con caschi, spranghe, ci volevano menare ancora per il fatto di Manu Chao, nonostante se ne erano sbattuti il cazzo di tutta la storia degli arresti, non ci avevano dato una mano, non ci avevano dato niente. Allora io spero, tutto questo aneddoto perché l'ho raccontato perché io l'aggiornamento lo do perché non lo so in quel luogo, in quel posto, in quella casa occupata, non lo so se è una casa occupata ancora, quanto sia occupata, ci sia sempre la stessa gente, se è stata arrestata la stessa gente che era in quello spezzone che voleva menare noi italiani, greci, francesi e tedeschi, non lo so chi c'era più, inglesi mi sa che c'era, insomma spero che la qualità delle persone sia cambiata in quel luogo. Gli aggiornamenti su Calcio Pandora le continueremo a dare perché non c'entrano solo loro ma c'entrano anche tanti altri compagni negli arresti. Questo era per capire un attimo, giusto, se mi votano i coglioni e non pubblicherò più un cazzo e rimarranno solo quelli della Casa della Montagna, sapete il perché non pubblicherò più un cazzo. Allora, questo era per quanto riguarda l'aggiornamento sull'operazione Pandora. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Fatal Morgana, il brano è Lifeblood, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Fascism a charge. Western democracy. Fatal Morgana, il brano era Lifeblood. Ora si ritorna alla controinformazione con un altro testo, altre riflessioni, questa volta dalla Grecia, sullo sciopero della fame di Nikos Romanos e la reazione anarchica. Leggiamo il testo. Il carcere è l'espressione più brutale e immediata del potere, e come il potere va distrutto, non può essere progressivamente abolito. Chi pensa di poterlo migliorare per poi distruggerlo rimane prigioniero per sempre. Il progetto rivoluzionario degli anarchici è quello di lottare insieme alla gente per farla insorgere contro ogni sopruso e ogni repressione, quindi anche contro il carcere. Quello che muove gli anarchici è il desiderio di un mondo migliore, di una vita migliore, di una dignità e una morale che l'economia e la politica hanno distrutto. In questa società non può esserci posto per il carcere, è per questo che gli anarchici fanno paura, è per questo che vengono rinchiusi in carcere. E questa è una citazione presa da Chiusi a chiave di Alfredo Maria Bonanno dal carcere di Re Bibbia il 20 marzo 1997. Citazione con cui inizia il testo che ora andiamo a leggere. Se Romanos avesse scelto l'attacco frontale senza un domani, avrebbe usato la sua arma incurante delle vittime per evitare il proprio arresto dopo la rapina e sarebbe probabilmente morto combattendo. La suddetta scelta ipotetica appartiene all'ampia corrente insurrezionalista nichilista e alle sue giustificazioni. È rispettabile e rilevante per le sue convinzioni esistenziali che non voglio qui analizzare. Ma Romanos ha fatto una scelta diversa, quindi la sua carcerazione è una graduale e tormentosa procedura di annientamento effettuata dallo Stato che difatti si sta vendicando, e con questo voglio rispondere a certe persone, shock out in un post su Atene Indimedia di 2 giorni fa, anche se loro non ci credono. Questo perché l'assimilazione autoritaria e l'alienazione sono sempre accompagnate dalla vendetta violenta, tradotto in un esempio deterrente che raggiunge dei livelli estremi. Da questo punto in poi Romanos avrebbe accettato il proprio destino, lasciandosi trasportare da esso. Questo è l'addomesticamento, o avrebbe combattuto con ogni mezzo a sua disposizione. Lui ha deciso di combattere non per migliorare le condizioni carcerarie, ma per migliorare la propria condizione di sopravvivenza. Ora, se la simili o decide di sostenere simili battaglie, qualcosa che fanno ogni tanto, per dei motivi propri, bassi o meno, egoistici, non ci interessa affatto, almeno adesso. Questo perché quando attacchi per prima cosa guardi verso il nemico che ti sta di fronte nel momento dell'attacco, e solo dopo ti volgi indietro, verso colui che ti segue o si unisce alla battaglia. Ad esempio, se i comunisti avessero attaccato le forze della repressione in piazza Sintagma 3 anni fa, gli anarchici sarebbero stati accanto a loro. Ho detto accanto, non con loro. Un atto parallelo di attacco, e non avrebbero mollato come hanno fatto. A coloro che sostengono che il procedere dello sciopero della fame ha contribuito alla formazione del consenso sociale riguardo ai progetti dello Stato, braccialetti carcerari, videoconferenze eccetera, la risposta giace nella scelta intransigente delle guerriglie urbane ovunque dove è in questione la vendetta. Tuttavia la risposta degli anarchici nichilisti insurrezionalisti è che l'esaltazione della vendetta e della repressione intensificano lo slancio ribelle e per questo lo cercano, e così anche il conflitto, in modo più fragoroso. Violenza, distruzione e morte non devono essere sempre le ostetriche della storia, shock out, ma sono sicuramente le ostetriche dell'anarchia. Immaginate la corrente anarchica in tutte le sue forme senza la morte nel corso della storia. Sarebbe una battuta che divertirebbe solo coloro che la ritengono un'esaltazione di morte. Nessuna lotta seria è senza sangue, ed è ridicolo cercare delle cause psicopatologiche che hanno una forte rassomiglianza con i metodi della propaganda statale. A meno che le Italie possano essere distrutte con gli scherzi o sbattendo le pendole sulle piazze. Romanos, con la sua determinazione, ha raggiunto un significativo arretramento, o piuttosto un ripiegamento dell'apparato autoritario. Questo di per sé ha un molteplice significato. Tutti coloro che sono aperti alla pratica anarchica aggressiva, conflittuale, insurrezionalista o meno, sottolineano questo fatto e continuano. Gli altri farebbero bene a ripensare la questione della solidarietà con tutti e con ciascuno degli oppressi con la stessa intensità e con i loro compagni, e specialmente la questione della metodologia di azione. Nicolas Nessunos. Questo era il testo, le analisi fatte sullo sciopero. Penso che sia una risposta a qualche post pubblicato su Indimedia, Atene Indimedia, cosa che sta avvenendo non solo dai comunisti, da parte dei comunisti, comunque anche tra compagni anarchici c'è una discussione in questo periodo sul fatto che qualcuno abbia considerato una vittoria lo sciopero della fame di Nikos Romanos. Io direi, invece di attaccarci su ste cazzate, pensiamo a fare qualcosa di meglio. In Grecia se ne fanno di cose buone, quindi cioè, non stiamo dietro. Se qualcuno ha dichiarato la vita, lo stesso Nikos ha detto che questa è una vittoria sia sua che dei compagni che sono stati fuori ad appoggiarlo, non lasciandolo solo in tutto durante i 28 giorni della sciopero della fame, in cui ricordo il compagno proprio l'ultimo giorno aveva deciso di iniziare anche lo sciopero della sete, e il medico che lo visitava, un medico che ha chiamato da parte dei compagni, gli aveva dato poche ore di vita. Alla fine Nikos ha raggiunto il suo scopo, gli sono stati concessi i permessi di uscita tramite braccialetto elettronico per seguire i corsi universitari. Lui l'ha definita una vittoria. Ora non ci attacchiamo, non facciamo le bilance stanno in tribunale, molto spesso pendono più dalla parte della repressione che dalla parte dei pezzenti. Noi pezzenti non pende mai la bilancia, raramente esce qualche assoluzione, però molto spesso pende sempre più verso le condanne, quindi non ci mettiamo a fare anche noi bilancini e a pesare le parole dette da un compagno che aveva appena terminato 28 giorni di sciopero della fame e che è stato vicino alla morte. Facciamo di meglio, lo sappiamo fare, si è visto, quindi abbandoniamo le chiacchiere. So che stanno per uscire ulteriori testi dalla Grecia su questa cosa, vedremo, non li pubblicheremo tutti, ma qualcuno più interessante lo pubblicheremo. Questo era per quanto riguarda lo sciopero della fame, le analisi sullo sciopero della fame di Nikos Romanos. Ora ci ascoltiamo un altro brano che ancora non avevo scelto, perché poi mi sono messo a chiacchierare. Allora, prossimo brano, ecco, l'ho scelto. Loro sono Cabanate, il brano Exultation, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione, questa volta con un testo che ci fa avere il compagno Marco Camelis, a cui è stata negata ultimamente di nuovo per l'ennesima volta la libertà, la semilibertà, la libertà condizionale, perché con la motivazione per l'ennesima volta che Marco non vuole piegarsi, non vuole rinunciare al elvetico, è una cosa brutta. Quindi Marco poneva qualche speranza, però comunque è sempre più convinto delle sue idee che sulle speranze. Allora, Cabinet Exultation, e poi dopo si ritorna qui con il testo che ci fa avere Marco Camelis. Exaltation Cabinet. Allora si torna qui con l'ultimo testo della giornata. L'ultimo testo è bello lungo, quindi ce lo divideremo in tre parti. In tre parti va bene. Un testo, un sunto tratto da un articolo, è tradotto dal compagno Marco Kamenisch in Svizzera, sul riarmo controinsurrezionale dell'UE. Allora, leggiamo il testo. Riarmo controinsurrezionale dell'EU e l'esercitazione per i futuri interventi internazionali contro blocchi, manifestazioni non autorizzate, eccetera. Il Centro per l'esercitazione al combattimento CEC, 23.000 ettari dell'ER esercito nella brugheria di Kolbitz Lenzling, nella regione di Altmark, nel nord di Landsassonia-Anhalt della Repubblica Federale Tedesca, è la struttura centrale per la formazione della Bundeswehr. Io lo leggo così, poi se c'era Marcello ero molto più facilitato dal leggere il tedesco. L'esercito federale, dove ogni militare tedesco previsto per le missioni all'estero passa 2 settimane di addestramento conclusive. Il campo di simulazione, per esempio per sparare con i laser sui nemici ancora immaginari in Afghanistan. Poiché manca la simulazione degli scenari collocati, come negli ultimi anni, sempre di più nelle aree urbane del CEC stanno costruendo un'intera città per addestrare il personale militare per il combattimento casa per casa, strada per strada. Per circa 100 milioni di euro sarà la città addestramento più grande d'Europa ed è costruita su 6 km quadri con tanto di canalizzazione metropolitana, centrale idrica ed elettrica, zona industriale, quartiere diplomatico, baraccopoli, centro commerciale, campo sportivo, area boschiva e moschea occasionalmente convertibile in chiesa. Io penso che non sarà convertibile in chiesa. Questo perché prevedono che nel 2035 il 60% della popolazione mondiale vivrà nelle città e fino al 2070 addirittura il 70% è, che si dovrebbe ipotizzare interventi urbani sempre più frequenti della Bundeswehr. Ma già oggi il CEC è affittato regolarmente dai partner per delle esercitazioni congiunte dei vari eserciti europei, che in futuro saranno intensificate per le forze militari e di polizia strutturate militarmente dei vari paesi. Ormai è da tanto tempo che stanno formando delle unità militari e di polizia specializzate nell'intervento internazionale contro ogni espressione insurrezionale. Dopo i disordini del 1998 in Bosnia e Erzegovina, sotto amministrazione ONU, gli USA ordinarono ai carabinieri italiani di formare una truppa di gendarmeria internazionale capace di mantenere l'ordine pubblico, vale a dire di mantenere sotto controllo la popolazione in zone di guerra o post-guerra, e si formò la prima unità multinazionale specializzata MPU impiegata nell'ambito delle forze di stabilizzazione della NATO. Sempre sotto comando USA, ma in base ad un trattato internazionale stipulato nel 2004 dai capi di Stato che parteciparono al G8 di Sea Island, nel 2005 fu installato il Centro di Competenza per le Unità di Stabilizzazione, COESPU, con sede a Vicenza nella caserma dei Carabinieri, Armando Chinotto. Il Chinotto a Napoli è un'altra cosa, è molto adatta ai Carabinieri, non diciamo cosa significa. Sprovvista però di un grande campo di addestramento tipo CEC. Secondo il direttore del COESPU, il generale dei Carabinieri, piuttosto di un centro di formazione che concentra e trasmette delle competenze con seminari e convegni e compone delle robuste forze di polizia per le missioni internazionali di pace, tra virgolette, vale a dire forze di gendarmeria formate sul modello dei Carabinieri italiani, cioè unità ibride con competenze militari e di polizia munite di armi pesanti ma anche non letali che possono operare sottile. Questa era la prima parte del testo del sunto fatto da compagno Marco Kamenisch. Ora ci ascoltiamo un brano per spezzare, poi dopo si ritorna qui un'altra volta con la seconda parte, lo ripeto, lo dividiamo in tre parti, quindi brano, la seconda parte e poi dopo un brano e poi la terza parte. Ora non la finisco più. Motor Mark, il brano è Blame. Allora mandiamo a sfumare questo brano di Motomark, altrimenti non la finiamo più di leggere il testo di decomagno Marco Kamenisch. Allora passiamo ora alla seconda parte, sono due brevi paragrafi. Il primo è intervento all'estero. Obiettivo primario delle formazioni Ecoespo sono la capacità di controllo degli assembramenti umani e di contrasto ai tumulti. I poliziotti di stabilizzazione, dice un rapporto di seminario, devono essere capaci di gestire i disturbi dell'ordine pubblico, la vigilanza dell'infrastruttura sensibile, le scorte delle persone importanti, la lotta al terrorismo e contro le rivolte, di sgomberare barricate e addestrare la polizia locale nelle tecniche controinsurrezionali. Nello stesso documento si chiede la stessa formazione anche per le forze militari ed è infatti ormai consueto che i militari NATO nei loro luoghi di spiegamento si addestrino in tal senso. E nell'EU, Unione Europea, dopo la sanguinaria repressione della rivolta contro il G8 di Genova, l'allora ministro degli interno tedesco Otto Schilly, il classico ravaniello fuori rosso verde e dentro bianco che da compagno si ricicla Hitler e Mussolini docet. Marco ascolta i 99 post, questo non lo sapevo. In un'intervista chiese a gran voce la formazione di una polizia internazionale ed in seguito fu rafforzato la cooperazione tra le polizie europee ed innanzitutto tra le forze speciali europee addette al mantenimento dell'ordine pubblico. E se nei vertici UE continuano a discutere il progetto di una polizia speciale europea, sembra che lo facciano piuttosto per dissimulare che tale forza di polizia è già una realtà. Terzo paragrafo, clausola di solidarietà UE. L'articolo 222 dei trattati UE di Lisbona prevede che gli stati affiliati si impegnano al mutuo soccorso in caso di emergenza. In caso di attentato terroristico o di calamità naturale o di una catastrofe provocata dall'uomo, l'Unione può mobilitare tutti i mezzi di cui dispone, incluso i mezzi militari messi a disposizione. La rappresentante per gli affari esteri e per la politica di sicurezza dell'Unione Europea, Catherine Ashton, e la Commissione Europea del 2012 hanno precisato che questa clausola di solidarietà entra in vigore se si tratta di vite umane, dell'ambiente, delle infrastrutture critiche o funzioni sociali essenziali. L'evento potrebbe avere le sue origini da una catastrofe naturale o provocata dall'uomo o da attentati terroristici. È definita come catastrofe ogni situazione che ha o più o può avere degli effetti nocivi per le persone, l'ambiente o la proprietà. Una definizione molto larga che include anche gli scioperi e le insurrezioni. E questi erano gli altri due brevi capitoli del testo. Ora ce ne resta l'ultimo, il più importante, l'Eurogenfor, ma lo leggeremo subito dopo il prossimo brano, che è degli Absolute Body Control, nemmeno fa la posta, So Hard. E abbiamo mandato a sfumare anche gli Absolute Body Control. Ora si ritorna all'ultimo pezzo dell'assunto tratto dall'articolo da parte del compagno Marco Kamenisch. Dicevamo l'ultimo paragrafo, che ha per titolo Eurogenfor. Ecco, la cooperazione tra i vari stati UE. Nel 2004 Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, con la formuletta di una dichiarazione di intenti, come per magia, esibirono la European Gendarmerie Force, Eurogenfor, un'aggregazione informale di unità di polizia provenienti dagli stati firmatari. Da 2008 vi appartiene anche la gendarmeria rumena, la gendarmeria turca ha uno status da osservare, quella polacca e lituana sono considerate come partner. In caso di impiego, entro 30 giorni deve essere formata un'unità di 800 effettivi. Il personale di polizia è fornito dagli stati affiliati, l'indirizzo degli allenamenti congiunti come anche l'organizzazione e la direzione competono ad un quartier generale insediato nella stessa caserma Vicenza che ospita anche il COESPU. Eurogenfor è stata impiegata sinora solo in Bosnia ed Erzegovina, Afghanistan e Haiti. Secondo il portavoce di Eurogenfor Armando Sisinni, il dispiegamento della gendarmeria europea sarebbe previsto solo per dei paesi esterni all'Unione. Eurogenfor è fuori da ogni controllo parlamentare, sottostà solo ad un consiglio di ministri degli interni e alla difesa degli stati affiliati. Chi può impedire a questo consiglio di inviare quanto ritenuto opportuno i gendarmi europei in paese dell'UE? In fondo, il come, quando e dove si impegnano e si impiegano delle forze armate e delle unità di polizia dipende dalla volontà politica e la clausola di solidarietà del Trattato di Lisbona può giustificare tale impiego. Ed ecco che la UE, in caso di tumulti, dispone della facoltà di inviare nei paesi dell'UE siari con l'ultimo tocco ottenuto, per esempio, nel CEC. Per ora pare che i governi europei si limitano al rafforzamento delle cooperazioni di polizia negli ambiti di controllo degli assembramenti umani e contrasto ai tumulti. Su richiesta al governo federale da parte della frazione della Die Linke, la sinistra si apprende che tra il 2010 e il 2013 già solo la polizia federale tedesca svolgeva 73 esercitazioni congiunte con altre forze di sicurezza estere. Risulta insolita la gran frequenza di esercitazioni per le situazioni di occupazione di case e di manifestazioni. Alcuni esempi: a giugno 2012 a Beirut agenti di polizia tedesca e austriaci si prepararono per lo scenario occupazioni di case, perquisizioni di case, tiro, catastrofe naturale, nuoto e salvataggio, scorte. Fine novembre 2012 forze di polizia tedesche, belghe e lussemburghesi per lo sgombero blocchi. Il 10 ottobre 2013 a Kirchhed Göteborg nel Sirland esercitazioni antimanifestazione con una centuria della celere della polizia del Sarland, una gendarmeria mobile francese ed una centuria della compagnie Republican de Sécurité. Almeno penso di averlo letto bene, il francese non è la mia lingua preferita. Secondo un'informazione data dal governo federale, il 13 febbraio 2014 si esercitava l'azione di polizia contro una demo con manifestazione intermedia e conclusiva come nelle giornate di azione di Blockupy. Vuol dire che si preparavano a contrastare una manifestazione a livello europeo contro la gestione politica della crisi. Blockupy è quell'alleanza di critici della globalizzazione, di sindacalisti e attivisti di sinistra che si è formata già nel 2012 per protestare a Francoforte, a Main, presso la sede della BCE, contro la gestione politica della crisi attuata dalla Troica, Banca Centrale Europea, BCE, Commissione UE e Fondo Monetario Internazionale. Con lo slogan Austerity Kills, l'austerità uccide, l'alleanza prevede di bloccare anche l'inaugurazione della nuova sede BCE prevista nel 2015, uno scenario che non può non terrorizzare l'establishment di Bruxelles. E questo, con questo abbiamo terminato questo riassunto tradotto dal compagno Marco Kamenisch il 20 novembre 2014 dall'articolo di un articolo tratto dall'Internazionale, non diciamo il nome della giornalista perché comunque sempre giornalisti si tratta. Allora, con oggi finisce qui la diretta d'azione, una diretta d'azione molto molto liscia. Ora cade la connessione, lo so, appena ho detto liscia cade la connessione, non è caduta, allora sti cazzi, vi fregate, perché la diretta torna, finisce oggi ma torna lunedì, vediamo che giorno è lunedì 29 dicembre, con la diretta d'azione classica del lunedì, con il grigio fuori, le nuvole, la pioggia, il temporale e la nostra felicità, perché se vediamo il sole di lunedì ci preoccupiamo. Come ci sarà Marcello, si leggerà quasi il finale di Na013, il mio testo, più e soprattutto Nessuno ci salva di Sergio Spiasecchi. Appuntamento è lunedì 29 dicembre, ore 17, ore 15:45 per chi vuole ascoltare musica e l'ultima parte, l'ultima lettura fatta da Marcello lunedì scorso. Con questo è tutto, vi saluto. Radio Azione. Radioazione.org. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.